9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 18 di febbraio, Santa Costanza, ed è alla Costanza che è dedicata questa trasmissione. Io l'ho già fatto nel lancio della trasmissione, lo faccio brevissimamente anche adesso. Dichiaro come disclaimer o come caveat, seconda che usiate l'inglese o usate il latino, il mio conflitto di interesse, perché il tema di cui parliamo oggi è un tema su un dibattito aperto in questi mesi nel paese, il rapporto tra donne e potere, o meglio, come il potere tiene lontane le donne, che considerazione ne ha. Non stiamo parlando oggi della vicenda delle notti di Arcore, ma stiamo parlando di un tema che ripetutamente io sollevo da questi microfoni, esponendomi, avverrà anche oggi immagino, alle reazioni molto critiche della maggioranza del pubblico. È sempre successo così, tutte le volte che abbiamo parlato di rappresentanza femminile, che abbiamo illustrato i dati del ritardo, del gap sulle questioni di genere che riguarda il nostro paese in tutte le graduatorie internazionali. Siamo tra il 75esimo e l'80esimo posto nella graduatoria del gender gap fatta dal World Economic Forum, con paesi come Ghana e Malawi che stanno messi meglio di noi. Abbiamo una partecipazione delle donne al mercato del lavoro che resta così lontana di 20 punti per esempio dalla Germania, che se li raggiungessimo e raggiungessimo l'obiettivo europeo innalzeremmo per questo solo fatto di 7 punti di PIL la nostra crescita. E oggi ci dedichiamo a un punto di che già tre volte abbiamo sollevato nel corso dell'ultimo anno, ho controllato, che è il problema della rappresentanza delle donne nell'ambito di un potere che non è quello politico ma è quello economico e finanziario, non meno rilevante, anzi la mia opinione è che sia più rilevante, perché come tante volte da questi microfoni abbiamo spiegato, la mia opinione minoritaria, che oggi anche affermo in conflitto di interesse, perché questa è la radio di Confindustria e come vedrete tra pochi secondi c'è una ovvia necessità da parte mia di dire che, poiché la mia convinzione è che in tanti decenni non abbiamo fatto passi avanti rilevanti per avere una rappresentanza delle donne nei consigli d'amministrazione del, tanto per cominciare, società quotate e delle municipalizzate, 3-4 volte vi ho spiegato che secondo me, per quanto liberale e contrario quindi alle misure che impongono quote eccetera eccetera, però c'è una riflessione storica da fare nel nostro paese. Se gradualmente la società non riesce ad abbattere gli ostacoli all'ingresso, si parli di organizzazione di settori del mercato o in questo caso di rappresentanza nei posti di potere, nei CDA, nei collegi dei sindaci, dei revisori, delle società più importanti dell'economia e della finanza nazionale, viene un momento nel quale è giusto, secondo me, porsi il problema di alcune norme che dicano adesso ci mettiamo questo obiettivo di riallineare la rappresentanza di genere entro X tempo, altrimenti succede questo. Dopodiché la legge decade, si chiamano sunset law, leggi a tempo. È quello che hanno fatto alcuni paesi europei, lo ha fatto la Norvegia, lo ha fatto la Spagna, ne parleremo oggi, è quello di cui si discute anche in Italia, ma pochi giorni fa, appunto, qui sta il disclaimer e il conflitto di interesse, rispetto a questa legge approvata alla Camera e che oggi è in discussione al Senato, tre grandi associazioni, tra le più rilevanti nell'economia nazionale, Confindustria, appunto, che è proprietaria di questo gruppo editoriale da cui stiamo parlando, l'ABI, le banche, l'ANIA, le assicurazioni, hanno espresso in un documento, inviandolo al Senato dove è aperto il dibattito, la loro preoccupazione che la misura di cui si parla, l'innalzamento al 30% nei consigli e negli organi delle società quotate e municipalizzate, sia troppo problematica, perché innalza troppo drasticamente questa rappresentanza, perché pone problemi di costituzionalità, ma soprattutto perché espone a delle sanzioni troppo pesanti lo scioglimento degli organi in un numero, in un lasso di tempo troppo ristretto, che creerebbe più guai di quelli che risolverebbe, e quindi la questione adesso è aperta. Io, che sono un sostenitore di questa norma, sia pure alla luce del fatto che anche i miei minoritari amici liberali mi fischiano dietro e mi dicono ma come, sei liberale, sei diventato pro quota, ho dichiarato il mio punto di vista, ma ora lascio la parola ai sostenitori della legge e agli critici della legge stessa. La mia opinione, se volete raccogliere comunque il mio invito, è che una delle cose da fare, se siete favorevoli, è mandare delle belle mail al presidente del Senato Renato Schifani. L'indirizzo mail è tutto attaccato: segreteria@senato.it, e al presidente della commissione finanza, il senatore Mario Baldassarri, l'indirizzo è mario.baldassarri@senato.it, delle vostre considerazioni in cui li pregate di indirizzare il dibattito in maniera tale che sia posto al riparo da improprie, non voglio dire pressioni, ma insomma da considerazioni che siano esclusivamente attinenti a un serio, rigoroso, equanime esame di questa misura. Ora, chi sono i nostri ospiti? Sono in questa prima parte Lella Golfo, che è presidente della Fondazione Marisa Bellisario, deputata PDL, nonché prima firmataria della legge sulla quota rosa di cui stiamo discutendo. È una proposta di legge bipartisan, la cofirmataria, prima firmataria per il PD e l'onorevole Mosca. La ringrazio e la saluto. Buongiorno a Lella Golfo. Buongiorno. Poi abbiamo Monica D'Ascenza, una collega del Sole 24 Ore, che ha appena scritto un bellissimo libro in cui in 160 pagine trovate riassunte tutte le esperienze comparate dagli altri paesi e i dati italiani in profondità. Questo libro si intitola Fatti più in là, donne al vertice delle aziende, le quote rose nei CDA. Buongiorno e grazie a Monica, buongiorno. Buongiorno a te e agli ascoltatori. E Alessandro De Nicola, mio amico, avvocato, presidente della Adam Smith Society, quindi un minoritario liberale anche lui, editorialista del Sole 24 Ore, che ha scritto più volte con solidi argomenti criticando dal punto di vista liberale la misura di cui parliamo oggi. Buongiorno avvocato De Nicola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Lella Golfo, entriamo subito nel merito. Di fronte alle obiezioni e di fronte al fatto che siano arrivate in questi giorni, come ha reagito e che cosa pensa nel merito? C'è rimasta male? Ma insomma, come procederà a evolvere? Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto a lei che ha spiegato in maniera proprio inequivocabile, insomma, tutto il progetto delle quote di genere. Come ho reagito? Ho reagito male, anche perché a reagire la prima è stata una donna e questo mi ha in qualche modo ferita. Emma Marcegaglia. Esatto, però siccome noi siamo un paese civile e democratico è giusto discuterne, perché alla fine credo che una soluzione si possa trovare. Allora, Lella Golfo, quando ha presentato questa proposta di legge, non è stato un capriccio. Io sono la prima a dire che non sono stata mai d'accordo con la quota rosa, se la vogliamo chiamare quota rosa, ma questa legge nasce da un'esigenza, come giustamente ha spiegato lei. La prima donna a sedere in un consiglio d'amministrazione è stata esattamente del 1932. Dopo 80 anni siamo al 6,7%, abbiamo 174 posizioni su un totale di 2.800, il 50% degli organi di amministrazione non ha una donna nel consiglio. Allora, questi sono i dati da cui partire, non c'è volontà politica di fare un passo avanti, quindi io credo che questa legge è indispensabile, viceversa non andiamo da nessuna parte. D'altra parte, il nostro paese, le donne crescono, il 60% delle donne sono laureate, quindi che cosa si deve fare? Io pensavo con questa legge democraticamente possiamo risolvere il problema. Alla fine è una legge temporanea, riguarda 3 mandati, vediamo come va, se va bene va avanti, altrimenti decade, insomma, quindi cioè, mi sembra che non c'è assolutamente niente. D'altra parte, oltretutto, accogliamo anche una normativa europea che ci invita proprio ad azioni positive per quanto riguarda le donne. Io non lo so, sono rimasta veramente colpita. Comunque le donne non mollano, perché non devono mollare, c'è tutta una campagna di mobilitazione e io credo che poi alla fine questi pochi senatori che si sono messi un po' di traverso, probabilmente ragionandoci sì, il problema lo risolveremo. Io sono molto ottimista, ma sono ottimista perché matura il paese, perché non è un capriccio delle donne e perché la nostra economia di questo paese così ingrovigliata, così ferma, ha bisogno di questa iniezione proprio di speranza, di intelligenza, di un'energia nuova che sono proprio le donne. Io devo dichiarare la mia aggiuntivo caveat per quello che riguarda appunto Emma Marcegaglia, che io stimo molto, e io penso questo: avendo lei dimostrato nei fatti, ha messo anche alla testa di questa azienda editoriale un'amministratrice delegata donna, Donatella Treu, e anche questa è un'eccezione nella media delle grandi aziende italiane, io penso un po' questo, non parlo a nome suo e non è titolo mio farlo, penso che quando le donne ottengono nel nostro paese, so che già inizio a vedere i messaggi dei maschi in ascolto che come al solito mi dicono venduto eccetera eccetera, però io penso che molte di loro, proprio perché devono dimostrare, lo sappiamo perfettamente che è così, una aggiunta di doti rispetto a quelle medie che per le responsabilità analoghe devono avere gli uomini spesso, poi quando si trovano nelle rarissime posizioni di potere che esercitano, si trovano ancora di più a dover esercitare una specie di arretramento delle proprie posizioni, perché il 99% dei maschi che hai intorno ti fanno pesare il fatto che vorrai mica a quel punto davvero fare il passo avanti nel gender gap nell'azienda che guidi o nell'associazione che guidi, perché altrimenti direbbero ancora di più che sei una donna e ne approfitti per il posto di potere che eserciti. Quindi questo secondo me aiuta un po' a capire, ma ripeto, non parlo e non tocca a me parlare a nome di Emma. Detto questo, effettivamente capisco che molti dicano: ma come, proprio una donna presidente di Confindustria dice che è contraria perché creerebbe più guai che problemi risolti questa norma? Sentiamo però l'avvocato De Nicola, perché in Norvegia, dove questa, una norma come questa l'hanno adottata e sono arrivati in pochi anni al 40% dei posti nei consigli d'amministrazione, il dibattito in effetti è aperto. Der Spiegel questa settimana pubblicava un articolo in cui levava la pelle alle aziende norvegesi, in cui per esempio l'amministratrice delegata di Telenor, una delle più grandi aziende di telecomunicazioni di quel paese, che è anche presidente della Confindustria norvegese, diceva: io da liberale sono contraria e devo dire che per esempio grazie a questa norma più di 100 società quotate, quando stavano entrando in vigore le sanzioni, hanno deciso di levarsi dalla borsa per evitare di essere sottoposte a questa norma. Quindi c'è stato del bene, però ci sono stati anche dei problemi. Avvocato De Nicola, le critiche a questa legge? Beh, diciamo, in una piccola ricerca che ho fatto anch'io e ho pubblicato in un mio articolo, si vede pure che la borsa norvegese, nonostante la Norvegia abbia un PIL in crescita superiore a quello degli altri paesi grazie al fatto che affogano nel petrolio, da quando c'è la quota rosa del 40% ha avuto una performance nell'ultimo quartile di tutte le borse del mondo, il che naturalmente non vuol dire il che naturalmente non vuol dire che è colpa del 40% delle donne, ma sicuramente dimostra che non c'è il valore aggiunto che viene da tanti declamato. Perché? Perché la società è fatta da individui, e grazie a Dio che Emma Marcegaglia è contraria, perché io sono spaventato quanto sento dire qualcuno: le donne si mobilitano. Ma quali donne si mobilitano? Ci sono uomini e donne a favore e uomini e donne contrari. Io conosco decine di donne che sono contrarie e molto arrabbiate su questa quota rosa, perché la società è fatta di individui, non di uomini o di donne. Questa norma, oltre a essere un attentato alla libertà, perché qui tra l'altro stiamo parlando di scelte di impresa, se gli azionisti sono così stolti da non scegliere donne capaci perché hanno un pregiudizio di genere, ma il primo che ci rimette chi è? È l'azienda stessa, quindi saranno gli azionisti stessi. Non c'è una questione pubblica, qui stiamo parlando di società, gli azionisti sono stolti, non scelgono delle donne capaci, benissimo, l'azienda andrà male, sono i primi a rimetterci. Inoltre, questa è una cosa che naturalmente scoraggia il merito ed è di difficilissima applicazione, perché una donna bianca, ricca, con studi ad Harvard e alla Columbia e di aspetto gradevole, di grande intelligenza, parte svantaggiata rispetto a uno che ha le stesse qualifiche, la stessa intelligenza, ma è un extracomunitario di aspetto sgradevole e di assoluta provenienza familiare svantaggiata? Allora dobbiamo fare le quote anche per gli extracomunitari, dobbiamo fare le quote per quelli che vengono da un background sfavorevole, dobbiamo fare le quote per i gay, dobbiamo fare le quote per i giovani, dobbiamo fare le quote per tutti coloro i quali dicono di rappresentare una comunità che in qualche modo è svantaggiata. Peccato che ognuno di noi come persone appartiene a tante comunità, e allora dovremmo fare dovremmo fare la quota per lo svantaggiato meridionale rispetto ai consigli che sono troppo pieni di settentrionali. E naturalmente questi mosaici mangiano se stessi, perché non vanno più da nessuna parte, sono assolutamente insulsi, perché come tutte le cose che pretendono di incasellare la società dentro degli schemi che dei legislatori si immaginano loro di poter inventare, creano più danni che altro. L'altra cosa, non è vero che non c'è evoluzione, le società si evolvono, lei Giannino che è aiecchiano dovrebbe saperlo, quindi ad esempio gli studi che ci sono dicono che nelle posizioni dirigenziali, se prendiamo i dirigenti, mentre che ne so, il capo degli affari legali, dico una cosa che mi è familiare, tra gli ultra sessantenni solo per il 19% è donna, tra i trentenni e quarantenni il 49% è donna, e questo per tutto, il capo dell'amministrazione ultra sessantenni 6,9, trentenni 44%, persino tra gli amministratori delegati, pur essendo la quota ancora bassa, ultra sessantenni 1,4% donne, trentenni quarantenni 8,4%, il che vuol dire che le società si evolvono. Fino a 30 anni fa le donne laureate erano meno, adesso sono molto di più, hanno delle performance migliori, occuperanno dei posti migliori senza bisogno che ci sia un legislatore, peraltro nominato e non eletto direttamente, quindi probabilmente in qualche modo cerca il transfer del modo in cui è stato eletto in Parlamento di recuperarlo anche per le società, che dica che cosa fare o che cosa non fare a degli azionisti privati. Va bene, quindi queste sono, devo dire, mi sono preso la mia raffica in questo caso, poiché io appartengo alla stessa scuola culturale dell'avvocato De Nicola, come vedete molto signorilmente è giusto che in questo caso l'avvocato De Nicola mi rimetta col cappello del somaro, però io continuo a pensarla così, perché se andiamo a vedere l'evoluzione, giustamente richiamata da De Nicola, i dati del CERVED, e quindi su questi passo la parola a Monica D'Ascenza, perché li trovate richiamati nel suo libro Fatti più là, ci segnalano i dati del CERVED che questa evoluzione dell'incremento della presenza femminile nei CDA è di una lentezza esasperante, perché dal 2001, quando la presenza era il 12,3%, leggo dal libro, e la crescita dal 2010 è stata solo del 2% in 10 anni, e insomma di questo passo noi arriveremo verso il 30% al 2050. Giustamente la posizione liberale classica, che è quella di De Nicola, dice ci si metterà il tempo giusto perché sono gli azionisti che scelgono. Monica D'Ascenzo, vedendo nel libro e vedendolo non solo nel libro ma vedendolo, credendoci insomma, nella realtà comparata e nella fotografia che fai del potere economico e finanziario della quota femminile nel nostro paese, l'obiezione liberale classica rispetto ai risultati ottenuti che si vedono negli altri paesi che hanno adottato queste norme, cosa ti induce a replicare a chi critica? Allora, io ho ascoltato con molto interesse De Nicola e vorrei innanzitutto mettere una precisazione. Confindustria, Emma Marcegaglia, Conani e Abi non sono contrari alle quote. Nella lettera che hanno scritto hanno detto che accolgono con favore questa iniziativa. Quindi iniziamo a sfatare questo mito. Non sono contrari, ma chiedono semplicemente l'applicazione per gradualità. Quindi hanno già superato, diciamo, tutte le obiezioni che faceva De Nicola, perché hanno detto a noi le quote vanno bene, andrebbero applicate con gradualità. Quindi questa è la prima cosa, anche perché mi sembra strano che Abi si esprima contro le quote quando le due maggiori banche italiane, Passera e Ghizzoni, gli amministratori delegati, quindi Intesa San Paolo e Unicredit, si sono dichiarati apertamente al favore e si stanno spendendo per su questo tema, le sì. quote. Confindustria, io nel libro ho intervistato diversi amministratori delegati, Conti di Enel, Cattaneo di Terna, Bernabei di Telecom Italia, De Benedetti di CIR, e si sono detti tutti a favore. Stiamo parlando di grandi gruppi italiani. italiani quotati in borsa. Quindi diciamo che non c'è questa contrarietà a priori, quindi questo è il primo paletto. Il secondo, quello che diceva appunto De Nicola sulla libera proprietà, l'articolo 41 e 42 della Costituzione italiana riconoscono che l'iniziativa economica privata è libera e che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, ma allo stesso tempo ne pongono i limiti. La libertà di iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Questo nel 41, nel 42 invece viene scritto che la proprietà privata è garantito il godimento, ma il limite è allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Sempre nella Costituzione, all'articolo 3,2, viene riconosciuta alla Repubblica la possibilità di azioni positive, affirmative action, come dicevamo prima, per sanare discriminazioni di fatto, perché la Costituzione non riconosce soltanto una parità formale, ma anche una parità sostanziale fra i generi. Quindi queste sono le obiezioni, diciamo, legali. Le obiezioni delle quote degli immigrati, io credo che De Nicola sia stato più volte negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone, e credo che sappia che la diversity all'estero non è declinata per genere, maschi e femmine. La diversity è declinata come un grande iceberg di cui appunto il genere è la punta, perché è la cosa più evidente. Vi faccio un esempio: in Norvegia, dove le quote rosa sono legge dal 2006, la Confindustria norvegese, che ha raggiunto l'obiettivo sulle donne, è partita con un progetto sugli immigrati, gli immigrati meritevoli che hanno le qualifiche, hanno le competenze, non devono essere discriminati. Quindi sì, De Nicola, quello sarà il passo successivo e probabilmente ce ne saranno altri, perché negli Stati Uniti i gay non vengono discriminati. Quindi è vero che c'è una declinazione della diversity a tutto tondo, a 360 gradi, noi siamo al primo livello. L'ultima cosa che volevo dire è che borsa norvegese ha la performance nell'ultimo quartile del mondo. De Nicola sa perfettamente che l'andamento di borsa non dipende soltanto dalla presenza delle donne nei CDA. No, direi che quello è un po' capzioso, l'ho detto anch'io, però mi permetto di sostenere che è un po' capzioso. Finisco, poi mi dice. Gli studi internazionali sono tantissimi, li ha fatti Catalyst negli Stati Uniti, McKinsey, e adesso c'è proprio nel mio libro uno studio apposta fatto da McKinsey Cerved su tutte le società quotate e non quotate italiane. Le società che hanno almeno il 20% di donne nel top management hanno una redditività a livello di ROI e ROA maggiore rispetto a quelle che non hanno questo 20%. Le dico di più, le società quotate da amministratori delegati donna hanno una redditività ancora maggiore rispetto a quelle che hanno soltanto il 20% di donne nel top management. Stiamo dicendo che le donne sono più brave? No, non è così, ma il mix di competenze porta all'azienda un miglioramento. I team misti, è stato dimostrato, funzionano meglio dei team di un unico colore, che siano solo di uomini o solo di donne. E questi argomenti, posti alla giusta attenzione degli azionisti, magari consiglierebbero agli azionisti di scegliere meglio anche per la creazione di valore della propria società, perché in termini echiani, lo dico De Nicola, ovviamente noi sappiamo che l'informazione è asimmetrica. L'azionista italiano spesso può essere, non ho detto che sia così, né io mi sostituisco a lui, ma può essere che non consideri l'effetto di creazione di valore comparato aggiuntivo che c'è per la presenza nel top management di donne. Ora la pubblicità e poi torniamo su questo tema. Eccoci tornati in studio, ci occupiamo del disegno di legge in discussione al Senato sulle quote rosa, il 30% nei consigli di amministrazione delle società quotate e delle municipalizzate, a pochi giorni di distanza dalla richiesta venuta da Confindustria a Bianchi di rendere più diluito il meccanismo di attuazione di questa quota e meno automatiche e meno gravi le sanzioni in caso di inadempienza, cioè lo scioglimento. degli organi. Ne abbiamo parlato con Lella Golfo, che è presidente della Fondazione Marisa Belisario, deputato PDL, nonché prima firmataria della legge sulle quote rosa, con Monica D'Ascenzo, che ha scritto, giornalista del Sole, ha scritto questo bel libro Fatti più in là, Donne al vertice delle aziende, in cui trovate tutti i dati della questione italiana e soprattutto comparata con quella degli altri paesi che hanno posto la stessa questione e l'hanno diversamente normata, ma con atti normativi nei loro ordinamenti. E abbiamo anche l'avvocato De Nicola, che ha esposto le critiche liberali alle misure della quota in particolare di genere, ma delle quote in generale. Molti ascoltatori mi hanno fatto notare che, oltre alle critiche dell'avvocato De Nicola, mi merito giustamente anche le critiche di chi da liberale dovrebbe essere a favore delle modifiche dell'articolo 41 citato da Monica D'Ascenzo. È proprio uno dei tre articoli di cui la scorsa settimana il governo ha detto che bisogna modificarlo per rafforzare la parte della libertà d'impresa. Sono d'accordo con voi, ma io dichiaro che su questo faccio uno strappo, nel senso che non mi nascondo di fronte al fatto che tutto quello che penso e dico di solito dovrebbe dirmi no, non servono le quote. Però è anche vero che io ho un'esperienza trentennale di lavoro mia in cui, secondo me, il tema del gap di genere io l'ho sempre visto attuato. Io ho sempre visto pratiche deplorevoli, mi limito a dire deplorevoli, in quasi tutte le aziende dove ho lavorato, e io non posso nascondere a me stesso che su questo le ho viste praticare da uomini contro le donne, per disconoscere nel merito, per chiedere abusivamente prestazioni improprie per riconoscere il merito, o magari per mandare avanti donne che non avevano merito rispetto ad altre che ne avevano di più. Io l'ho regolarmente visto, può essere che io viva in un mondo a parte, ma siccome l'ho visto, mi sono molte volte posto il problema da uomo, e me lo sono posto anche quando poi magari sono stato vice direttore o direttore di un giornale, e mi sono sentito molte volte in grave difficoltà con me stesso, perché mi sentivo fuori posto nel dover stare zitto di fronte a pratiche seguite da miei colleghi o dai miei superiori. E questa è la mia personale esperienza, può essere limitata, che su questo mi ha fatto un po' cambiare marcia. Abbiamo con noi anche, se, siccome è un progetto di legge bipartisan, l'onorevole Alessia Mosca del PD, e chiedo anche a lei, nel ringraziarla, che previsioni fa a questo punto dell'evoluzione del dibattito nell'altro ramo, cioè dove oggi è il dibattito in Senato, rispetto alle obiezioni che sono venute? Ma io continuo ad essere ottimista, perché spero che il primato della politica in questo caso si faccia sentire, nel senso che, a prescindere dalle pressioni che vengono da interessi di parte, in questo caso prevalga la necessità di prendere una decisione che serva per il bene del Paese. Questo è proprio il caso di dirlo, nel senso che sarà stato detto sicuramente, ed è stato detto tante volte, non si tratta di una misura che serve solo per le donne, serve perché il paese vada meglio, serve per sbloccare un luogo che è bloccato e che peraltro, inserendo le donne nei consigli di amministrazione, tutti i dati dicono che l'economia complessivamente va meglio. Quindi io spero che questo sentimento prevalga, e voglio aggiungere, anche questo probabilmente è stato ricordato, però voglio aggiungere semplicemente che nella nostra proposta di legge noi prevediamo che questa sia una misura a termine, quindi è una misura che serve solo per dare una scossa, ma ha un termine già fissato per legge, e quindi questo dovrebbe anche un po' ridurre le preoccupazioni di quanti liberisti pensano che questa sia un'ingerenza eccessiva. Questa è solo una scossa. Poi dovrebbe, auspichiamo che possa non aver più bisogno di nessuna costrizione normativa. Senatrice Golfo, si è letto sui giornali, è noto che, insomma, dei 53 emendamenti, quelli più che ci sono ancora pendenti di fronte al disegno di legge, ben 52 vengono in realtà poi nella parte politica sui cui banchi siede anche lei, cioè dal centrodestra. Purtroppo sì, che devo dire? Purtroppo devo dire di sì. D'altra parte, pure questa, diciamo, è una legge, come tutte le leggi, soggetta anche a critiche. Io mi auguro, siccome la discussione riprende martedì mattina in Commissione Finanze, che si possa superare queste contrarietà che effettivamente ci sono sempre a livello costituzionale, eccetera. Giustamente, come diceva la collega Mosca, la legge è transitoria, però io ho fiducia ancora che noi riusciamo a a portare a casa questa legge, perché non è il capriccio delle donne, ma una legge che serve, e quella scossa transitoria che ha bisogno il Paese. Io sono molto molto fiduciosa. Secondo lei, nel merito delle due osservazioni nella lettera, sì, delle tre associazioni, sì, d'impresa, cioè le sanzioni troppo rigide e i tempi troppo brevi di attuazione, ci si può fare un passo avanti per raccoglierle? Io non sarei d'accordo, perché poi non si sa dove, quando si incomincia a metterci mano, poi non si sa dove si finisce. Io la lascerei così com'è, perché è giusta, equilibrata, hanno 6 mesi per adeguarsi, quindi ci sono 6 mesi di tempo, per cui cioè, io la vedo molto ma molto equilibrata. E quindi levando poi quello si leva un po' la sostanza. Sentiamo, sentiamo, se noi togliamo quello poi alla fine, guardi, togliamo. Ci sono un po' di ascoltatori e spero ascoltatrici. Sentiamo Maria Paola che ci chiama da Milano. Prego. Buongiorno. Maria Paola. Buongiorno. Io la leggo dappertutto e a quest'ora sono in casa ad ascoltarla, ma so di darle una vita disastrata, signora mia. Proprio so di darle una delusione. Io parecchi anni fa ero arrivata molto in alto e poi ho capito che mi facevo pena da sola. No, o dovevo per la vita d'inferno di che faceva. Cioè dovevo diventare la rampante a presente, i tacchi 24, e allora ho fatto la casalinga di Voghera. Però le dico questo, sa perché le donne ce ne sono poche? Sì. Perché quando al potere c'è una donna, non mai farà andare avanti un, è volgare, farà andare avanti un'altra donna. No, siamo spietate. Cioè, lei dice le peggiori nemiche delle donne sono le donne. Sì, e questo so di deluderla, ma purtroppo lo so. No, è ma così. Io è temo molto che... triste, sa, ma è così. Maria Paola, ma io non è che non abbia visto anch'io questa cosa. Molto spesso ho visto indurre a questo atteggiamento la pressione dei maschi a fianco, per cui la donna diventa più spietata nel promuovere un'altra. Io non credo agli odi di genere, non credo che gli uomini si amino di più tra di loro, le donne si odino di più tra loro. Ho visto spesso anch'io nei giornali, nelle aziende editoriali e in aziende di altro tipo in cui ho lavorato, effettivamente emergere questo comportamento. Spesso ho riflettuto sul fatto che in quei casi precisi in cui mi trovavo io, anche in quel caso c'era una pressione molto forte. Insomma, siamo figli di millenni di storia e di una cultura organizzata in cui diciamo solo da pochi decenni gli ordinamenti su questo hanno affermato davvero la parità di genere, e purtroppo le storie di lunga deriva, non solo nel Mediterraneo come ci segna Brodel o nei contesti geoeconomici, ma in quelli culturali altroché se pesano. Natascia da Mantova, brevemente, prego Natascia. Innanzitutto buongiorno e la ringrazio per la possibilità. Guardi, io dico solo una cosa, spero che questa legge passi, anche perché a me è capitato proprio sulla mia pelle che un datore di lavoro mi dicesse: guarda, sei brava, però siccome sei una donna e puoi fare dei figli, non mi posso permettere di avere un buco per 6-8 mesi, il tempo che tu sei a casa in maternità. E questa è una grossa discriminazione nel mondo del lavoro per le donne. Secondo me è il più grande problema che c'è ai giorni nostri per una donna. Grazie Natascia, le informazioni sulla circolazione stradale. Eccoci tornati in studio. Avvocato De Nicola, in uno dei suoi recenti articoli su questo tema, tra le altre cose che sosteneva, oltre a quelli che ha già trattato, cioè il principio generale per cui non deve essere lo Stato leviatano a entrare in queste cose, lasciamo che il tempo faccia il suo corso come si è visto in molte professioni e così via, ce n'era uno che anche in Norvegia in effetti fa discutere, e cioè in realtà stabilire in tempi così ristretti quote così più elevate di quelle presenti, che cosa produce come effetto, come si vede nei consigli infatti delle società norvegesi, che poi esiste una minoranza di corporate women, cioè di amministratrici di professione, che a quel punto moltiplicano la loro presenza nei consigli di amministrazione, perché è l'unica maniera per adempiere alla condizione posta dalla nuova norma, e nella letteratura sono diventate le gonne d'oro. Avverrebbe anche in Italia secondo lei? È probabile che in una certa misura avverrebbe anche in Italia, anche se il futuro è sempre difficile. Potrebbe darsi che in Italia, essendoci una struttura delle imprese anche quotate abbastanza familiare, e invece delle gonne d'oro ci moltiplicherebbero i posti riservati alle familiari, come già accade in qualche caso, ma probabilmente potrebbe accadere questo. Però, sempre per prenderci un po' in giro, dottor Giannino, lei che è kantiano può non vedere il paralogismo, cioè il fatto che sia un ragionamento completamente sballato, il legare gli studi della McKinsey sul fatto che i team misti funzionano meglio dei team non misti con la legge, perché i team uomini e donne o i consigli di amministrazione con uomini e donne che funzionano meglio sono team e consigli di amministrazione scelti volontariamente per la cooperazione volontaria tra le persone, e quindi essendo scelti volontariamente e non perché un legislatore dice 30%, anche se per soli tre termini, che Dio li perdoni, questo fa una differenza sostanziale. Io sono favorevolissimo a tutto ciò che è volontario. Gli Stati Uniti, li conosco bene, il mio studio, di cui non dirò il nome per non fare pubblicità, ha vinto il premio l'anno scorso per la diversity, perché siamo i più sensibili alla diversity. Volontariamente, ovviamente. Volontariamente, perché abbiamo tutti i gruppi, anche noi, lesbian, gay, va transgender. Bene, va bene, mi becco anche questo. Va perché bene. È cooperazione volontaria. Monica D'Ascenzo, la nomino mio avvocato difensore, perché oggi per me è proprio la giornata amara, perché passo per uno che attacca la Emma, per cui lavoro, e Alessandro De Nicola mi fa la lezione, mi dicono che sono diventato comunista. Monica D'Ascenzo, rimettiamo un po' di puntini su lei. No, io devo dire la verità, inviterei volentieri De Nicola a prendere un caffè, perché secondo me alla fine riesco a convincerlo. No, a parte tutto, in Europa le quote sono già legge, in Norvegia dal 2006, in Spagna dal 2007, in Francia dal 13 gennaio 2011. La quota è del 40%, quindi più alta di quella prevista in Italia, che è un terzo dei consigli di amministrazione. In Germania si sta discutendo su questo, la Merkel, che è da sempre contraria, ha detto alle aziende: siate creative, perché sennò saremo creativi noi, quindi vuol dire o mettete le donne oppure ce le mettiamo per legge. In UK il governo ha dato mandato a un consulente, perché ed è Mervyn Davis, perché studi la situazione, studi le possibili soluzioni per sanare questo gap, e tra le ipotesi di lavoro di Davis ci sono proprio le quote di genere. Allora io mi chiedo, tutti questi altri paesi europei sono illiberali e solo noi siamo liberali che non vogliamo le quote? Ricordo anche che a Davos, nel summit che si tiene annualmente, sono state stabilite le quote, cioè i maggiori sponsor di Davos, che mandano 5 executive della loro azienda, dovranno mandarne almeno una donna tra le 5, e credo che Davos non si possa certo definire il posto più liberale che conosciamo. Quindi diciamo, è vero, io rispetto la libera proprietà, la libera iniziativa, e bisogna rispettare la Costituzione, però se c'è una discriminazione di fatto, perché guardiamoci in faccia, se i posti nei consigli di amministrazione venissero assegnati con i concorsi, probabilmente avremmo il 60% di donne, come avviene in magistratura e come avviene nell'avvocatura, e l'avvocato De Nicola lo sa bene. Non c'è dubbio, e infatti questo argomento è uno di quelli citati, ecco, dall'avvocato De Nicola regolarmente. A me ha molto incuriosito la dedica fatta da Monica D'Ascenzo nel suo libro alla bisnonna Laffarosa, a nonna Albina e a mamma Pasquina, che di quote non ne hanno mai avuto bisogno. È chiaro che le dediche riguardano innanzitutto il mondo dei sentimenti nel quale si forma in questo caso l'autrice, e non credo che sia nostalgia per il mondo del nostro passato. Io posso semplicemente dire a chi ci ha ascoltato che abbiamo tentato di fare informazione dichiarando, Confindustria ha chiesto delle modifiche. Io devo dirvi la verità, nel mio conflittino di interesse, venendo meno a tutti i miei principi liberali su questo, penso che se al Senato la legge, come alla Camera, verrà approvata, credo anch'io che ci sarà una forte resistenza delle società, ci saranno problemi perché sarà uno scatto che gli si chiede di fare, però vi chiedo, ma non è forse necessario di fronte a un tema come questo ogni tanto fare degli scatti? Io, in contraddizione con i miei stessi principi e con la stima assoluta e anche la collaborazione personale che ho con Emma Marcegaglia, dico che in questo caso spero che Lella Golfo, Alessia Mosca, i parlamentari e le parlamentari, i senatori e le senatrici, quella legge la approvino. Vedremo da martedì, continueremo a seguire la questione. Appuntamento a lunedì, grazie a tutti voi.